quando si rinizia l'anno, certo, è l'impegno. Finiscono le vacanze, l'impegno, certo, con grande entusiasmo e grande piacere. Però è pur sempre una levataccia alle 4 di mattina, è pur sempre un motivo di lavoro, è lavoro bellissimo, però, come ho detto, arriva al termine dello stacco estivo, quindi è sempre motivo di un importante impegno. Poi arriva la bellezza per quanto riguarda una sorta anche di sollievo, è lavoro, ok, ma quando parliamo, non so, del Jazz Club di Ferrara, quando parliamo di Magnani Rock, quando troviamo nuove esposizioni, nuovi motivi di incontro che diventano motivo di continuità, perché all'inizio della stagione li ritroviamo costantemente come compagni di viaggio, e costantemente come compagno di viaggio troviamo il Festival della Letteratura Mantova, mi pare 28esima edizione, ma ci dirà qualcosa di più Alessandro Della Casa, che ormai è co-conduttore della nostra rubrica. Tale proposito, buongiorno e bentornato Alessandro. Buongiorno William, buongiorno a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici. Grazie per la disponibilità di questa conversazione, tanto da portare in anticipo quello che sarà il contenuto della kermesse che apre ufficialmente il 4 settembre. Ma per me ho come l'idea che alcuni festival, alcune rassegne, sono poi qualcosa che danno impegno tutto l'anno, per quanto riguarda, sono talmente estese che ci si lavora già, si pensa avanti, ecco, se vogliamo. Però adesso ci concentriamo, se non mi sbaglio, su questa 28esima edizione, Alessandro. Sì, è corretto, 28esima edizione, abbiamo cominciato nel 1997 ed eccoci qui ancora con questa nuova edizione del festival. Cos'è cambiato in questi anni? Cominciamo subito così, visto che insomma è qualche annetto è passato. Quale sensazione hai avuto dal punto di vista personale nei vari passaggi che ci sono stati tra un festival e l'altro fino ad arrivare al 2024? Ma guarda, ti dirò William, è una, io credo che chiaramente il festival è molto cambiato in questi anni, anche perché sono cambiate molto le abitudini di lettura, di rapporto con, diciamo così, le produzioni culturali, il rapporto che ciascuno di noi ha, no, nel leggere, nell'ascoltare, nel assistere a spettacoli. Sono successe ovviamente tante cose, no? Un'ultima ovviamente la pandemia, che da cui siamo usciti da qualche anno fa. Questi hanno tutti inciso moltissimo anche su come è evoluta anche la realtà dell'industria editoriale, quindi è chiaro che è cambiato tantissimo. Devo dire che il festival è rimasto molto vicino alla sua idea originale, cioè quella di creare una situazione di festa, innanzitutto, dove appunto il libro fosse il protagonista di una situazione di condivisione, di relazione, dove appunto autrici, autori, lettrici, lettori potessero incontrarsi in un modo meno, diciamo così, convenzionale, meno condivisioni gerarchiche, ma si potessero confrontare apertamente. E questa idea è rimasta forte. È chiaro che poi questo, come fare questo, diciamo così, è cambiato, perché se all'inizio abbiamo creato soprattutto queste situazioni di grandi incontri di piazza, no? Dove abbiamo cercato di recuperare spazi pubblici, no? E far ritornare la loro vocazione originaria, gli spazi di incontro, no? Di relazione, no? Le piazze, i teatri, i palazzi storici, no? Quindi anche demusealizzandoli da un certo punto, sì, di vista, di fatto poi oggi è chiaramente a questa dimensione, quindi dell'incontro, dell'ascolto, che pur rimane ovviamente al centro, come avrei visto scorrendo il nostro programma, sì, del festival, abbiamo creato tantissime altre situazioni più laboratoriali, quindi dove magari l'interazione tra chi, diciamo così, conduce, chi scrive e chi partecipa è molto più intensa, oppure tutta la serie di lezioni, no, che quest'anno ci sono all'interno del programma, che sono pensati non per grandissime platee ma per piccoli gruppi, no, di 20, 25, 30 persone, proprio perché è nata l'esigenza, cioè è arrivata proprio dal nostro pubblico, in particolare dal nostro pubblico più giovane, di avere un tipo di relazione ancora più intensa e di condivisione, di discorso comune, di costruzione di un pensiero insieme a chi viene e ospita il festival. E questo, diciamo così, è proprio il segno, cioè ovviamente, di un mutamento, di un'attenzione diversa a quelle che sono le nostre nuove abitudini, dove magari il pubblico si sente, cioè vuole essere anche più coproduttore in un certo quel senso, no? Di quello che andiamo a creare, si viene a creare al festival, ma di fatto non vengono, cioè è una nuova declinazione di questo rapporto più diretto che abbiamo cercato di perseguire fin dalla prima edizione. È un filo conduttore che rimane sempre e comunque, nonostante le trasformazioni, mantiene un punto emotivo e umano molto forte, con un ascolto ai più giovani, con un'espressione dove le stesse generazioni, in maniera di intersezione tra di loro, vanno a dare importanza alla scrittura e alla lettura. Tutto ciò è qualcosa che unisce in un aspetto artistico che dà una continuità culturale di intrattenimento, perché no, ma in questo caso di grande aggregazione. Allora, adesso abbiamo dato un bel cappello introduttivo, fuori i nomi, qualche... Io ho letto di Carrère intanto. Sì, certo, beh, ovviamente Benoît Carrère, un grandissimo ritorno che già sta catalizzando ovviamente moltissimo l'attenzione, ma sono molti nomi ovviamente, certo, come avrei visto, di questa nuova edizione. Segnalo qualche autore internazionale, dopo poi tu mi chiederai ovviamente in base alle tue curiosità qualcos'altro. Noi siamo molto felici quest'anno di avere Paul Lynch, che è un grande autore irlandese, che è vincitore del Man Booker Prize ed è una grande presenza a questo nostro festival. Abbiamo Nathan Trall, che è uno scrittore statunitense che vive, che ha scritto questo libro intorno ai territori occupati in Palestina, che farà un bellissimo incontro con Paola Caridi, più concentrato anche sulla quotidianità, sulla vita, sulla relazione col territorio, no? Quindi di fatto è una rilettura del conflitto che, come sappiamo, ahimè, cioè domina le cronache da ormai diversi mesi, però riletto da una chiave poi di che cosa questo appunto come incide poi sulla quotidianità già negli anni, ovviamente di questi ultimi anni. E questa è un'altra grandissima presenza. Abbiamo Dipo Faloin, che è questo autore nigeriano che adesso vive in Gran Bretagna, che ci aiuta a capire come l'Africa non sia un solo paese, no? Dal titolo del suo ultimo libro, no? Noi abbiamo una visione molto spesso del continente africano come se si trattasse di un unico stato. In realtà ci sono appunto tantissime nazioni, centinaia di lingue diverse, culture che appunto non possono essere coincidenti, e quindi ci dà, restituisce la ricchezza di un intero continente, ma anche aiutarci a leggere, no? Come appunto tutto questo, cioè, può decostruire tutta una serie di stereotipi che noi spesso abbiamo nel leggere questo continente. Un'altra grandissima... dire che Svezia e Spagna siano uguali. Infatti, sì, o appunto la Bulgaria e appunto la Sicilia siano la stessa cosa. No, non è così. infatti. E altra grandissima autrice, Olivia Lang, che viene per la prima volta al festival, una delle sue rare presenze in Italia, l'autrice di Everybody e di tantissimi altri volumi. Cioè, questa è un'autrice che noi abbiamo voluto fortemente perché secondo noi interpreta poi una tendenza molto presente nella letteratura contemporanea, quella di una scrittura che non è più solo rigidamente o narrativa o saggistica o memorialistica, ma si intreccia molto, no? Quindi riesce, diciamo così, a scavalcare un po' i generi per creare una scrittura molto originale che ci pone su questioni fondamentali del nostro tempo, il nostro rapporto con le città, il rapporto tra appunto con il corpo, che tutti o con la natura, tutti i temi che Olivia Lang nei suoi libri ha affrontato in modo molto, molto chiaro e molto anche emotivamente molto coinvolgente. Altra grandissima scrittrice che noi stiamo attendendo è Elif Shafak, che è già stata nostra ospite al festival negli anni scorsi, la scrittrice turca che qui reinterpreta la grande epopea di Gilgamesh. E questi sono alcuni dei nomi, certo, insomma, che volevo portare all'attenzione dei vostri ascoltatori. Sì, io invece portavo l'attenzione, sì, certo, non è una novità, però ho intuito anche un grande aspetto di attenzione per la grafica e per io lo definisco ancora fumetto e non graphic novel, e per il disegno, però ci sarà anche questo spazio. Assolutamente, questo è uno dei progetti a cui teniamo di più quest'anno. Questo progetto si chiama Valletta Valletta perché lo abbiamo legato a un quartiere della città di Mantova, che è Valletta, sì, Valsecchi, che è il quartiere più vicino allo stadio, diciamo così. E abbiamo fatto, questo è un progetto che nasce poi in primavera. Noi abbiamo fatto una campagna di raccolta storie nel quartiere, cercando di chiedendo a tutti gli abitanti, a chi ha cominciato ad abitare a Valletta già nel secondo dopoguerra, quando il quartiere è cominciato a nascere, insomma, prima era di fatto solo una proprio terra, no? Quasi campagna, diciamo così, in città, poi dopo si è via via urbanizzato, e poi, no, alle generazioni successive che si sono succedute, a chi ci è venuto a stare da pochi anni, a molti residenti che vengono da altri paesi, che si sono insediati in quartiere, ai bambini. Quindi viene fuori un affresco collettivo molto interessante, che 7 fumettisti, Alessandro Baronciani, Grazia La Padula, Elisa Macellari, Eliana Albertini, Miguel Vila, Giulio Maccaglione, Guido Buroaldi, hanno iniziato a tradurre in albi a fumetti, sì, piccoli albi, microalbi, che verranno stampati poi durante il festival, e ognuno di loro ha interpretato alcune di queste storie, e si vede appunto molto chiaramente. L'idea è proprio di far capire come la storia di un quartiere, poi di una, o anche di una città presa più in largo, è di fatto nasce dalla storia delle singole persone che poi lo popolano e lo abitano, e si ha un'idea proprio, ne viene fuori proprio un quadro di un quartiere molto avventuroso, no? Dove poi ci sono le storie dell'infanzia, i ricordi degli anni passati, certo, tutto si intreccia per dare un grande romanzo collettivo. E di questo ne ha grande capacità di ispirazione una carissima amica, nonché diciamo con cittadinanza dalla Polinesia Veneta, cioè da Taglio di Po, che è Liana Albertini, è un'amica che ha grande capacità nell'interpretare le peculiarità che tu hai appena descritto, quindi molto molto bene. Cosa ti aspetti? Qual è il tuo desiderio? Hai la bacchetta magica, e da questo festival cosa vorresti, oltre che ovviamente l'afflusso, l'entusiasmo e così? C'è una microsensazione che vuoi sottolineare, Alessandro? Ma guarda, noi, cioè, la cosa che noi abbiamo, ovviamente una delle tante cose che noi abbiamo a toccare è ovviamente il grande investimento che noi stiamo facendo sui lettori più giovani, no? Sì. E come avrai visto, c'è tutto uno spazio che è quello del Museo Diocesano, che è dedicato proprio a loro, e dove loro sono protagonisti, no? Prima dicevamo nel cappello introduttivo che abbiamo fatto, no? Come sempre di più si cercano formule di coinvolgimento. Anche quest'anno, grazie a tanti progetti che portiamo avanti, da Passport a Blue Rendezvous, e le ragazze e i ragazzi sono protagonisti, e abbiamo fatto anche un altro grande progetto ambientale che quest'anno prende tanto spazio al festival, che è Lab, Libri, Acque e Boschi, dove i ragazzi e le ragazze sono state coinvolte già durante la primavera per raccontare, no? Porsi il problema, ma come raccontiamo la crisi ambientale, no? Come, quali strumenti, certo, appunto, di lettura, di racconto possiamo dare proprio per così appunto sensibilizzare rispetto a questa grande questione che è ovviamente del nostro tempo. E quindi di fatto io spero che appunto questa presenza, no, dei ragazzi e dei ragazzi, che è già molto evidente grazie ai volontari, sia ancora più evidente per far capire come queste nuove generazioni sono veramente portatrici di idee, di pensieri e di stimolo, di innovazione, che quindi dobbiamo stare ad ascoltarli e coinvolgerle, no? Se vogliamo fare una, diciamo così, una grande azione culturale, come cerchiamo di fare con il festival. Un percorso in proiezione giustamente futura, con l'importanza della letteratura che resta sempre e comunque tutti i tempi. Allora, Mantova è una città, una delle città più belle del mondo in assoluto, Palazzo Ducale, Palazzo Te, tanti altri aspetti di caratteristica medievale, un'emozione che si porta nella tradizione enogastronomica. Non perdete le specialità di Mantova, che unite a un buon libro portano a un weekend unico e speciale. Sono stato a Mantova in questo mese d'agosto e ogni volta che arrivo a Mantova resto stupito per la bellezza, per la capacità di rapimento architettonico che hanno le strutture ducali della città, e tutto questo con non poteva che essere palcoscenico migliore di un festival che noi seguiamo da quando esiste il Breakfast Club. Grazie ad Alessandro Della Casa, che grazie a voi, Festival della Letteratura a Mantova dal 4 all'8 settembre. Allora, abbiamo parlato, abbiamo dato alcune indicazioni, adesso parliamo un po' online per trovare informazione per il programma. Ci tocca anche citare questo, che ogni tanto il digitale ci viene in aiuto. In questo caso, su quali piattaforme troviamo il programma, Alessandro? Allora, il nostro sito è ovviamente festivalletteratura.it, si può scaricare la nuova app dove si trovano ovviamente tutte le informazioni, autori, luoghi, eventi, eccetera, eccetera, e nei prossimi mesi sull'app caricheremo anche tutte le registrazioni degli incontri, tutte le edizioni del festival passato, i video, quindi sarà i percorsi che si possono fare in città che sono nati al festival, quindi sarà anche un'occasione l'app non solo per ricevere informazioni su questa edizione, ma per vivere Festival Letteratura tutto l'anno. Grazie di cuore, Alessandro, per questa conversazione. Ti auguro una buona giornata e un buon festival. A presto. Grazie. A presto. Ciao. Riot è il disco di Bobby Hughes Experience, uno dei dischi che ho selezionato per i miei spostamenti durante l'agosto 2024. L'ho ritrovato sulla vettura, ho detto perché no, lo porto anche in playlist visto che mi ha tenuto compagnia per tutto l'agosto. Eccolo qui, Bobby Hughes Experience Fuzz Riot per la Ultimate Dilemma. Minuti al termine di questa ricca prima puntata. Domani Move to Groove, sto contattando un arbitro, speriamo di portarlo in diretta perché è interessante iniziare con una visione arbitrale la stagione del Move to Groove che ci attende. Comunque questo sarà domani, martedì, seconda puntata di stagione di Prima Colazione in diretta. Comunque, allora, abbiamo parlato di un protagonista, Emmanuel Carrer. Per quanto riguarda Alias Edizione Domenicale, a pagina 2 ne dà un ampio articolo su un aspetto letterario ucronico. Qual è l'aspetto letterario ucronico? Beh, nei paesi di lingua inglese si indica con l'emicrania che ogni tanto mi viene, una storia alternativa alludendo a quella forma di narrativa ambientata in un mondo più o meno diverso dal nostro a causa di una deviazione del corso reale della storia. Ok? È abbastanza chiaro, eh? E infatti uno dei primi lavori, mi pare il primo lavoro di Carrer, che viene riportato da Adelphi e pubblicato nel 1986, lo scrittore si lascia attrarre dalla possibilità di esibire Storie bugiarde, Ucronia da Adelphi, ripreso dal titolo della corrente letteraria stessa. Nel complotto contro l'America, un libro bellissimo tra l'altro, Philip Roth racconta che a vincere le presidenziali del 1940 non fu Roosevelt, bensì Lindbergh, e questo avrebbe portato gli Stati Uniti ad avvicinarsi alla Germania nazista. In Italia, contro passato prossimo di Guido Morselli, attribuisce la vittoria nella Prima Guerra Mondiale all'impero austro-ungarico e a quello tedesco. Cioè è un cambiamento di aspetti fondamentali per quanto riguarda i percorsi storici, dei what if, per dirla in maniera cestistica. Cosa sarebbe successo se? Altre vite dietro l'angolo è un gioco fascinoso, ma allo stesso tempo poi alla fine ci porta a un pensiero che ho voluto sottolineare. Quanto poi alla fine la realtà a volte supera di gran lunga nel bene o nel male la stessa fantasia. Uno dice no, ma allora questo diventa una banalità. No, no, tutt'altro. Anzi, per fare un lavoro del genere gli autori devono fare tanto, tanto lavoro di ricerca, per... Opala, ho voluto portare il brano di Terry Callier in conclusione, per evitare degli inciampi storici nella documentazione riportata e allo stesso tempo metterci una buona dose di fantasia e poi alla fine dare motivo a noi stessi di riflessione che... Ma alla fine poi... E in effetti il romanzo ucronico dà questa sensazione di grande fascino per poi portarti la riflessione anche che a volte la realtà supera di gran lunga la stessa fantasia, nel bene e nel male, ovviamente. Saved a nickel and lost a dime. Questo brano l'ho dovuto troncare per dar linea giustamente al GR di Radio Popolare, lo metto come sigla di conclusione per il Breakfast Club di oggi. Vedo già in redazione il mio direttore, il nostro direttore Alessandro Canella, Alfredo Pasquali, a breve sarò in diretta in rassegna stampa dalle 9.30. In quanto Liberi Dentro darà spazio tra la prima colazione in diretta e la stessa rassegna stampa, attendendo poi quello che sarà l'Edipeo Enciclopedico stagione 24-25. Io vi ringrazio per l'attenzione, per l'accoglienza, ben ritrovati, super mattiniere e super mattinieri dei 103.1. Domani alle ore 7 puntualissimi per fare colazione assieme con il Breakfast Club su Radio Città Fujiko. E nonostante le temperature, emotivamente mi permetto di portare un caloroso abbraccio a tutte e a tutte voi e ricordarvi che domattina faremo nuovamente colazione con il Breakfast Club. Ciao a tutte, ciao a tutti dal vostro William Piana. Ciao. Ever since the world began, a true for woman, a true for man, you'll be fortunate if you can win one more than you lose. Something just occurred to me, too many people still ain't free.